Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Metello Salani era nato in San Niccolò, ma fino ai 15 anni non vi aveva mai abitato. La sua famiglia era di quel rione e ciascuno ha le discendenze che si ritrova. Suo padre, Renaiolo, era stato anarchico e tutti, tra Piazza De Mozzi e La Colonna, l'avevano conosciuto per la sua bassa statura e il suo pugno proibito. Lo chiamavano Caco, e non perché quella gente sapesse di mitologia, ma per via del gruppo del Bandinelli che è sotto Palazzo Vecchio, e per dire che era uno che soltanto un Ercole l'avrebbe potuto castigare. Dapprima, si raccontava, egli se n'era offeso, poi aveva saputo che Caco era una specie di ladrone e questo gli aveva fatto piacere, siccome i ladri, lui che era onesto, li stimava. Era stato amico non di Pietro ma di Giovanni Gori e sputava se gli rammentavano Bakunin. Quando Bakunin abitava alle spalle di Santa Maria del Fiore, giusto durante il primo anno di Firenze capitale, Caco e il suo amico Leopoldo, un altro anarchico dal pugno proibito, un ginnasta di circo finito caffettiere in piazza Piattellina, erano andati a trovarlo nella casa di via De Pucci, dove, si diceva, la tavola era sempre apparecchiata per gli amici e per gli sconosciuti, bastava avessero fame. Non che Poldo e Caco fossero affamati, erano le due dopo mezzanotte e magari avevano sete. Volevano conoscere Bakunin per dirgli che la smettesse di mazzineggiare e di fare all'amore con Beppe Dolfi, rivoluzionario dai piedi dolci e fornaio infido. E gli era stato chiuso l'uscio in faccia da entrambi, da una cameriera in divisa. Tutto questo Metello non poteva dire di saperlo. I più anziani, come Bette e come Pestelli, gliel'avevano raccontato. Sua madre era morta dandolo alla luce. E pochi mesi dopo suo padre era annegato in Arno, mentre cavava rena secondo il suo mestiere. Gli dissero che la madre era una specie d'angelo, che travedeva per il suo uomo piccolo ma forte, e gli scodellava figlioli che poi, avessi il sangue guasto o che, non sopravvivevano più di qualche giorno o qualche mese, quando non abortiva. Certo, ella non si nutriva come una signora, e di ricorrere alla beneficenza o all'ospedale degli innocenti per il latte artificiale, che occorreva chiederlo con un po' di umiltà per ottenerlo, dal momento che il suo era veleno, Caco non glielo permetteva. Così gli erano morti un maschio e due piscione. Caco, in coteste circostanze, pigliava una sbornia, costringeva la moglie a seguirlo con in braccio il morticino, la faceva sedere sugli scalini di Palazzo Vecchio. Lui saliva sopra la base del monumento raffigurante Ercole e Caco e teneva un comizio. «Mi chiamano Caco, come quello lì! Statemi a sentire!» E finiva una volta di più alle murate, per offese al potere costituito, per invito alla sedizione o soltanto per ubriachezza molesta, a seconda dell'umore del delegato. La morte della moglie e il nuovo figlio che aveva messo a balia dicevano l'avessero cambiato. «La verità è che son rimminchionito», egli rispondeva. «Perché son rimasto solo. Una donna come quella. Dove la trovo?» E proprio adesso che sembrava avesse davvero qualcosa da dimenticare, invece di ubriacarsi almeno una volta alla settimana come prima, aveva smesso di bere. E non passava giorno che non fosse sull'Arno a lavorare. Lui che durante il lustro dell'abbondanza, quando l'arena si vendeva come pane, non si faceva in tempo ad approdare, che c'erano i carri delle imprese di costruzioni pronte a caricarla, usciva col barcone un giorno sì e tre no, ora, in pieno decennio della carestia, che l'arena s'ammucchiava sul greto, come i covoni nei campi, e i covoni diventavano pagliai, tanto era misera la richiesta, era il primo a trovarsi in Arno appena spuntava l'alba, disposto a cedere una giornata di lavoro per 2 centesimi. Si era inimicato tutti i compagni di Porticciola, che vivevano del suo stesso mestiere. E se qualcuno si azzardava a fargli delle rimostranze, lui borbottava tra i denti: «Ho da pagare la balia. Questo deve vivere. L'ho promessa a lei. si sputava sul palmo delle mani, come per impugnare la pala, stringeva i pugni, li agitava per aria e gridava: «Sotto, vi piglia anche tre per volta, chi può provare?» Una mattina, sul finire del 73, l'Arno era quasi in piena, da arrischiarvisi a patto che battesse il sole. E invece, più che caligine, c'era una nebbia che da Ponte alle Grazie non si distingueva Giardino Serristori. Lo stesso Caco decise di uscire col barcone. «Sto sull'Arno da quando era in fasce», usava dire. E quel tratto, segnato a metà dalla cloaca chiamata La Botte, avrebbe potuto percorrerlo ad occhi chiusi. «Artù per tu con l'Arno, Ercole, e son io!» Cotesta mattina, chi si affacciava alla Spalletta, poteva immaginarsi che l'Arno fosse scomparso sotto una nuvola grigia e nera. Caco era solo sul fiume. Si portò verso il centro, col barcone, dove sapeva lui, e a colpi di reni e di sgrullate alla pertica che frugava il fondo, cominciò a tirar su le prime palate di rena. Ogni tanto tornava indietro, poiché l'empito del fiume, sia pure lentamente, lo trascinava verso la cloaca. Lavorava da 2 o 3 ore. Era forse a metà del carico che si era ripromesso e la nebbia, invece di diradarsi, si infittiva. D'un tratto, il barcone incontrò la corrente che dalla botte affluisce nel fiume e per un lungo tratto, anche in tempo di magra, l'impazza. Il barcone, pesante com'era, si mise a girare su se stesso. Caco tentò di guadagnare nuovamente il largo, puntando la pertica sul fondo con tutte le sue forze, ma il barcone ne riceve una controspinta tanto violenta che lo sbilanciò. Caco si trovò sospeso sull'acqua, aggrappato alla pertica, contro la quale, un attimo dopo, il barcone, preso nel mulinello, venne a cozzare. L'urto lo sbalzò dalla pertica, e il barcone li fu sopra. Egli andò giù a piombo, come se il barcone fosse la lastra che lo chiudeva per sempre nel suo sarcofago d'acqua. Rincine è un paese del Mugello, al confine con la Val di Sieve. E ancora in quel tempo non c'erano diligenze. Lasciata a Contea l'onda, bisognava inerpicarsi su per i viottoli e le strade carraie. La terra è avara, ci cresce il castagno, il leccio, e i contadini, non potendo avere una stalla, hanno un ovile. Le donne, appena gravide di 3 mesi, già mettono voce in città attraverso le procaccine. Ma siccome non sono quasi mai fior di ragazze, non sono una razza pregiata, difficilmente gli capitano delle fortune. Del resto, chi, avendo da scegliere, darebbe al proprio figlio una balia delle montagne di Contea? A parte la miseria tra cui vivono, non hanno, logicamente, nemmeno latte da buttar via. Ma se la terra è avara, l'aria è buona, d'alta collina, e le aiuta. I figli loro, pur divezzati avanti tempo e nutriti per anni dell'essenziale, diventano uomini da reggere un aratro. Se non le donne, come balie, i braccianti di Contea, di Vicchi e di Comano sono apprezzati. È gente di fatica, parca per forza di cose, e diffidente, gelosa del nulla che possiede, ma salda di carattere e buona di cuore, a suo modo. Quando nella casa del Tinai si seppe della morte di Caco, gli era stata spedita una lettera per sollecitare il mensile, e il corriere l'aveva riportata su con scritto «per morte del ricevente». Il capofamiglia fece vestire il figlio Eugenio e la nuora perché andassero a Firenze a restituire il bambino. «Ditegli a questo Caco che ci vogliono 10 cittadini per coglionare un contadino, e son sempre pochi!» I due tornarono, e Isolina teneva ancora in braccio il piccolo Metello. «È morto per davvero, e non ha un parente a cercarlo con l'antennino!» E Tinai sbatté il cappello sulla panca del focolare. «Son le nostre fortune!» gridò. Dopo cena, accesa la pipa di terracotta, si era già calmato. La famiglia, Eugenio, la nuora, le due figlie ragazze, il bambino di Isolina in collo alla nonna, era lì che l'ascoltava. «Da un po' di tempo a Rincine ci fa buca. Quando capita una disgrazia, ruzzola qui e infila l'uscio di questa casa!» Isolina accennò col mento al piccolo Metello, che ora teneva al seno. «Ma come si fa a riportarlo giù e affidarlo agli innocenti? Dite voi!» Era una donna giovane, e forse gli si era affezionata, perché alla sua prima maternità e al suo primo baliatico, e se una parzialità le riusciva, era sempre a danno della sua creatura. «Si fa!» disse il vecchio Tinai. «Chissà che non sia la sua fortuna! Uno di questi giorni tornerete a Firenze apposta!» Eugenio si teneva il pugno dentro l'altra mano. Senza alzare il capo disse, «Abbiamo già provato, ma non l'hanno preso, ci vogliono le carte!» Tirò fuori un foglio dalla tasca e lo agitò nell'aria. «Si deve andare al municipio di Firenze con dei testimoni e davanti a un notaro! L'hanno scritto qui!» Isolina aggiunse, «Hanno detto, chi ci garantisce che questo bambino si chiama così e che al mondo non ha più nessuno? Intanto c'ha voi altri!» «Ci vogliono le carte!» ripeté Eugenio. «E portare dei testimoni in municipio davanti a un notaro. Bisognerà tornare a Firenze 3 o 4 volte almeno. Ci costerà 20 lire. «A velle?» disse il vecchio. Poi disse, «Allora portatelo alla ruota!» «Ma questo non è mica un innocentino!» azzardò Isolina. «Ha un babbo e una mamma che l'hanno riconosciuto, anche se sono morti!» Seguì un lungo silenzio. Infine Eugenio alzò il capo, disse... «Ci hanno preso il nome. Ora gli innocenti sanno che questa creatura è nelle nostre mani. Se non ci facciamo più vivi, dice che avviseranno i carabinieri di contea, che sono le nostre fortune!» ripeté il vecchio e insolitamente bestemmiò. Le donne si fecero il segno della croce. Fino a 15 anni, Metello visse in campagna, a pascolare le pecore assieme a Olindo, suo fratello di latte. Anche se il vecchio Tinai se l'era portato un'invernata di gelo e le due ragazze si erano sposate, una con un contadino di Londra ed era poi andata a morire di parto là nelle Americhe dove erano emigrati, l'altra, più fortunata, col sottofattore e aveva ritirato con sé la madre, la famiglia lo stesso era cresciuta. Nel corso dei 15 anni, a Eugenio e Isolina erano nati altri 3 figlioli, tutti maschi, anche questi, a scala, e Metello era uno dei 5, non c'era distinzione. Un orizzonte di ininterrotti crinali aveva delimitato il suo sguardo di fanciullo. Alte colline chiudevano la valle, coi castagni, i lecci, i cipressi, gli ulivi nani, e la sieve fatta apposta per stanarvi granchi di sotto i massi e tuffarvisi là, dove fa ansa e durante l'estate forma una gran gora. Fu un'età felice. Forse per questo egli faticava a ricordarsene. Gli tornavano in mente certi nomi del gregge, Nerina, Pomera, Sorda, e il suono dei campani, i tramonti, col cielo basso e viola, che mettevano sgomento più dei temporali. Anche l'odor di salvia e fagioli, che esalava dal tegame collocato in mezzo al tavolo, la sera. Vi si attingeva ciascuno col suo cucchiaio, un boccone dopo l'altro. E la volta che per poco Lindo non annegava nella gora, «come tuo padre in Arno», gli aveva detto mamma Isolina. Così aveva saputo com'era morto suo padre. La volta ancora che trovarono il guardia della fattoria impiccata a un castagno, e babbe Eugenio era stato arrestato, come tutti i contadini di Rincine, di Londa e di Contea. Siccome il guardia non si era ucciso, qualcuno l'aveva appeso al castagno dopo averlo pugnalato. Amici amati dei contadini disperati, di quei bravi lavoratori dissanguati da sfruttatori, loro lavorano tutto l'anno con sudor, fatiche, affanno da primo albore a tarda notte, mangiano polenta e patate cotte, ed il curato ed il quadro mangiando in secche e bocca buoni del pagliacchissimo e di bambino alla barba di contadino, prima sempre il padrone con la metà della sua porzione. E il resto miei uditori glielo mangiano gli sfruttatori. Se si è felici nell'incoscienza, sì, fu un tempo felice. Lo chiamavano, Olindo e gli altri ragazzi pastori, il cittadino, e questo, invece di adirarlo, lo compiaceva, gli dava importanza. Lui rispondeva, un giorno torna a Firenze e ve lo fo vedere io. Nessuno li sapeva replicare, ridevano. E cosa credi sia Firenze? A volte gli dicevano, non c'è più lavoro nemmeno per i muratori. Tanti dei loro padri e fratelli, che erano stati muratori in città, ora erano tornati ai campi, o emigrati in Belgio, dove ci sono le miniere, o in Bassa Italia, dove costruivano le ferrovie. Ma come in lui c'era un orgoglio di cui non avrebbe saputo spiegare la ragione, così essi, nel ripetergli che egli non era uno dei loro, non mettevano né astio né cattiveria. Se ne sarebbe ricordato. Un'umiliazione, un torto, se davvero sono tali e ne soffriamo, è difficile che ce ne dimentichiamo. Del resto, Firenze era lontana, quasi 30 chilometri, più lontana della luna che certe sere sull'Aia pareva infilata nello stollo, e da toccare arrampicandosi in cima al pagliaio. Una di coteste sere che spannocchiava nel Gran Turco, egli aveva detto a Cosetta, «Ho le sorbe nascoste dentro il pagliaio». Lei lo aveva seguito. Era una bambina dei contadini di Norceto, un podere vicino. Era bionda e portava di già il fazzoletto in testa. «Cosa mi dai se le dividiamo? Vorresti un bacio?» E ne aveva messe una in bocca e lei lo aveva baciato. «E per tutta la manciata?» E la chiese, «Voglio qualcosa di più. Vorresti fare la pecora al montone?» Lui si era sentita avvampare in viso, ma senza dargli il tempo di rispondere, Cosetta era scappata. Di questo, certo che si ricordava. Era un ricordo che chiamava l'altro, di quando aveva già 12 anni, e Babbe Eugenio era stato arrestato per via del guardia, la stessa estate, e poi l'avevano rilasciato. Il guardia nuovo era più perfido di quello morto. Se due pecore sconfinavano in bandita, rincorreva lui e Olindo e li sferzava col frustino sulle gambe, un bruciore per giorni e giorni che non si resisteva a tenerci sopra il lenzuolo. Ora, alle pecore, badavano i fratelli più piccoli. Lui e Olindo lavoravano nei campi coi genitori. Cosetta si fece trovare più spesso sulla sua strada, un bacio e scappava. Egli non le poteva chiedere di fidanzarsi, magari in segreto, dal momento che si era lasciata baciare anche da Olindo una volta per un pugno di more, e una sera Metello l'aveva colta di sorpresa alle spalle, che stanava i granchi nella sieve, l'aveva rovesciata sul greto, ma era forte quanto lui, più forte se gli riuscì a sfuggirgli anche cotesta sera. E venne un tempo peggiore, l'ultimo. Alla fattoria li avevano presi di mira. Ci fu un raccolto più magro del solito. Gli ripeterono che trascuravano la terra, che erano troppe bocche e poche braccia. Il sottofattore in persona con cui erano imparentati gli minacciava la disdetta. Il guardia nuovo, col fucile in spalla, sembrava star di casa sul podere. Babbe Eugenio diceva, non si può più durare. Parlava di Belgio e di miniere. Fossero stati altri tempi, diceva, sarei potuto andare a Firenze a fare il manovale. In 3 o 4 anni sarei diventato muratore. Ci perseguiterebbero anche lì. E l'America è troppo lontana. Mi parrebbe di non poter più tornare. In Belgio ci si arriva col treno. Finché trovarono chi aveva ucciso il vecchio guardia e Babbe Eugenio, che ormai aveva fatto le carte, lo stesso si decise a partire. Qualche mese dopo scrisse che Isolina e i ragazzi lo raggiungessero, ma non Metello, non l'avevano adottato e quindi non gli davano il permesso, almeno per ora, gli disse mamma Isolina. Tu ormai sei un uomo e queste cose le devi capire. Chissà che non sia la tua fortuna. Ci fanno il regalo di prenderti in fattoria. Ubbidisci, lavora, fatti ben volere. Del resto, in fattoria, ora ci hanno ridato la stima. E non vai a stare da degli estranei, c'è la sorella del babbo, c'è la nonna. Ha visto la nonna? Non ci sei trovata bene? E da un certo giorno in avanti, è come al primo canto del gallo. Per buio che sia, non è più notte. Se aguzzi lo sguardo, vedi baluginare l'alba. Il ricordo ha una diversa consistenza. Il treno era scomparso dietro la svolta, laddove avrebbe trovato il passaggio a livello che divideva la strada Carraia. Era il tramonto. Era estate, giugno, il giugno dell'87. Isolina e i ragazzi non avevano sventolato il fazzoletto, erano rimasti ammucchiati a un solo finestrino, a guardar lui e la nonna, che li guardavano. Isolina, col più piccino in braccio, la nonna, con le mani sotto il grembiule. Non pareva nemmeno che le due donne piangessero. L'ultimo a parlargli era stato Olindo, nell'orecchio. «Se con Cosetta ci riprovi, fammelo sapere!» C'era ancora nell'aria il fumo della locomotiva, e il fischio si faceva sempre più lontano. D'un tratto tacque anche la campanella della stazione, e si sentirono cantare i grilli e abbaiare un cane. La nonna disse «Andiamo!» Fuori c'era il carro della fattoria e il bracciante che li aveva accompagnati. Erano discesi col carro fino in Valdarno, dove passava la ferrovia. «Tra un'ora saranno a Firenze!» disse il bracciante avviando i buoi. La nonna disse «Speriamo non si sbaglino nel cambiare treno. Dovranno cambiare 7 volte. Gli hanno scritto tutto. È un'anima buona che li legga. Dio non gliela farà mancare». Metello le sedeva accanto, con le gambe fuori il carro che si era mosso e stava per superare il passaggio a livello. Il bracciante gli disse «Vedrai che ti troverai bene in fattoria, cittadino. Meglio che in Belgio. E almeno la domenica mangerai come non hai mai mangiato». La donna gli aggiustò il berretto. «Ricordatelo, specie col guardia, sii rispettoso». Il carro sobbalzò sulle rotaie, e per il brusco movimento, siccome non si teneva con la mano, Metello fu spinto avanti. Istintivamente mise i piedi in terra e si trovò ritto in mezzo al binario. «Ma sei ciucco!» esclamò la nonna. Il carro era già sulla strada, distante una 10 metri. Il bracciante tratteneva i buoi. «Su, monta!» disse, e gli fece il cenno con la testa. «Capa di rapa!» C'era un gran silenzio. Si erano zittiti anche i grilli. Vicino volava un moscondoro. Uno dei buoi mugghiò, l'altro gli fece eco. Metello era rimasto fermo, guardava il carro e la vecchia e l'uomo che lo aspettavano. «Oh!» fece il bracciante. «Ma sei assordito?» «Metello!» disse la nonna. Lui li guardava. E all'improvviso voltò le spalle e fuggì, lungo il binario, e poi sul tratto di terra battuta parallelo le rotaie, dalla parte dove era andato il treno. Non udiva le grida e i richiami, correva. Gli rombava la testa, ma correva. La strada ferrata tagliava in due i campi, deserti a quell'ora. Forse l'uomo lo rincorse per un po', forse la nonna dette voce a quelli della stazione, seppe molto tempo dopo che era stata tale la loro sorpresa che quando si decisero ad inseguirlo, egli era già scomparso dietro la curva e dentro la galleria. Alla stazione si rifiutarono di avvertire Pontassiere. «Ma dove volete che vada? Bocca che mangia, non si perde!» Dentro la galleria egli riprese fiato e di nuovo, intimorito dal buio ma non spaventato, staccò la corsa. Quando uscì dall'altro capo del tunnel, pur breve, era sera fonda. Fu come se ne accorgesse d'un tratto. Si era lasciato dietro le spalle le ultime case di Rignano e sapeva già dove andava e cosa voleva. Andava a Firenze, dove era nato e che non conosceva, e avrebbe vissuto da solo, col proprio lavoro, lontano dal guardia e dalla gente della fattoria, lui che era un cittadino e non aveva nessuno al mondo. Gli sembrava, e ora i grilli cantavano più forti, si erano destate le rane, abbaiavano i cani, saliva in cielo la luna piena a illuminargli il cammino. E a quella luce splendevano tutti bianchi i sassi dell'Arno in secca tra i campi e la ferrovia. Che Isolina, Olindo e i fratelli più piccoli fossero partiti tanto tempo prima, tanto che nemmeno si ricordava bene i loro visi. Per un momento gli parve d'aver dimenticato i nomi dei più piccini. Correndo se li ripeteva, Vittorio, Carlo e l'ultimo, quello ancora in sottanino, Ascanio. L'avevano chiamato come il sottofattore. Un treno gli veniva incontro. Si udiva il fischio. Quindi apparve il muso della locomotiva che vomitava faville e lo sbuffo di fumo. Egli si inoltrò per un viottolo e raggiunse la strada maestra. Il treno passava alle sue spalle. E sulla strada avanzava un barroccio carico di fieno. Il frastuono del treno, la presenza del barrocciaio come appollaiato sulle stanghe, gli ridestarono il senso del pericolo. Riprese a correre fin dove cominciavano altre case. Forse era Pontassieve. C'era scritto sulla prima di quelle case, come a Contea, come a Rincine. Allora capì che non saper leggere era una grande disgrazia, come portarsi addosso una malattia. Lui vedeva i segni neri sulla parete calcinata, ma gli occhi non gli servivano. Era come fosse cieco. Al di là delle case ritrovò il suo fiume. Attraversava un ponte che immetteva un grosso paese. Era Pontassieve. A capo del ponte c'era una fontana. Si dissetò. Era stanco e si sedé sulla spalletta. Passò un secondo carro di fieno e il barrocciaio, sdraiato questo sulla cima del carico, arrestò il cavallo davanti a lui per accendersi in mezzo toscano. Da quell'altezza gli disse: «T'ha lasciato solo la dama, giovanotto?» Metello era sudato, ansante. Appena dissetatosi alla fontana, tuttavia sorrise, quasi gridò: «Ma che? Non son di qui, son di Pontassieve!» Il barrocciaio rispose: «Ho capito, sei un furbo!» Ora Metello sapeva di trovarsi davvero a Pontassieve. Si allontanò girando al largo del paese, ancora sulla strada maestra. La luna sembrava fare il suo stesso cammino. Col primo sole entrava in Firenze, passando sotto porta alla croce. Si spinse avanti ancora pochi passi e si trovò in pieno mercato. Così vestito com'era, piantato con le mani nelle tasche, era nel suo ambiente. Nessuno avrebbe potuto immaginare la sua avventura, e ora la sua curiosità, la sua stanchezza e la sua fame. Era un ragazzo alto e quadrato per la sua età, col ciuffo nero sulla fronte, le mani grandi, un berretto in testa, la camicia abbottonata ai polsi e al collo, il gilet sopra, senza giacca, le scarpe di vacchetta impolverate e i calzoni lunghi fin sugli stinchi. Tale da sembrare che avesse non 15 anni appena compiuti, ma 18, 19, e capace di affrontare la fatica con disinvoltura. Attorno a lui, dei facchini di piazza scaricavano dai carri le casse della frutta, le palle dei cavolifiori, le arance e i mandarini che egli toccava per la prima volta. Altri facchini accorrevano per trasportare la merce nei depositi. Più avanti i venditori al dettaglio sistemavano i loro banchi. V'era grande animazione e vocio. Il sole già scottava. Metello si sentiva stanco e aveva fame. Era come intontito e di curiosità e di stanchezza e di sonno e di fame. Una voce lo riscosse. «Ehi tu, sei qui coi carri o per dare una mano? Sotto? Mi manca gente stamattina, 4 centesimi l'ora, ti sta bene?» Lui non rispose. Non si girò nemmeno a guardare chi gli aveva parlato e se davvero quelle parole erano state rivolte a lui. Si avviò a uno dei carri, presentò le spalle e si caricò di una cassa. Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.